t'offro Augusta, questa real donzella, figlia Costanzo il Grande, che lungo tempo i cedici del regno per l'impero sostenne contro di Vitagliano. Ora di ta sorte gli aprì scampo la fuga e qui se ne venne. Amore, servili, babò mio, il tuo bel cuore.